di fronte a me ho 25 o'clock, per quale motivo? Vediamo un po' se i microfoni. Sì. Sì, ci sono? Ci sei, sì. Ritorno, sì, sì. Perfetto. Okay. Vogliamo alzare anche l'altro microfono, che è l'altro, no, l'altro cursore che è in attesa. Sì. E così riveliamo subito la ospite o gli ospiti telefonici. Se ci sente. Se ci sente, ci senti? Pronto, Lili. Noi ci sentiamo forte e chiaro, voi ci sentite? Abbastanza. Regoliamo i volumi e dovremmo esserci. Ah, così, così è meglio? Va abbastanza bene, no, direi. Io in cuffia la sento. Ci sentiamo, sì. Prima di iniziare. Beh, buonasera, buonasera. Buonasera. Ti saluto a Cupio Dissolvi. Evviva! Lo conosci il Cupio Dissolvi? Ma come se no? Certo, Mirtillo preferito, fratello, sorello. No, perché lui è uno degli ascoltatori di prove tecniche di trasmissione, quindi... Lui, oltre ad essere uno degli ascoltatori di prove tecniche di traduzione, è una persona meravigliosa che conobbi tantissimi anni fa e che magari non ci sentiamo così spesso, ma c'è una connessione mirtillica in atto e sorellica, fratellica, e, ed è una persona splendida. Oltre che un musicista favoloso, è una persona che non vedo da tanto tempo, ma sono felice che capiti così a Fagiolo questa sera. Acceso. Allora, acceso, ti abbiamo rotto le scatole questa sera, a te e alla tua allegra compagnia che c'è lì di fronte, con il pretesto che, vabbè, sabato prossimo suoni a dell'Ateneo Occupato per un'iniziativa benefit per una libreria, ma ovviamente questo è un pretesto e poi andremo pian piano a scoprire anche perché, non che appunto la iniziativa non sia importante ed essenziale, ma perché ci tenevamo così a di nuovo risentirci qua in radio, visto che non lo possiamo fare direttamente dal vivo, almeno per stasera, e così per sapere, perché è veramente tanti anni ormai. È strano che stai a Roma, piuttosto. Forse la domanda è proprio questa, è strano che stai a Roma. Che cosa hai fatto in tutto questo tempo? Questi anni. Da prima del Covid praticamente, insomma. Tante cose. Infatti è strano che sto a Roma, ma è bellissimo anche stare a Roma, perché era proprio tantissimo che non tornavo. E ora posso dire, dopo tutti questi queste peregrinazioni, che è veramente importante e soprattutto fare ritorno a casa. Quindi suonare sabato all'Ateneo, essere qui a casa dopo mille milioni di anni che non c'ero, è molto importante e forte per me essere qui in questo momento. Peraltro, scusa, tu peraltro hai suonato al Glitch, se mi sembra, l'anno scorso, no? Ti ricordi? Sì, prima di partire in tour con i Cult. Ah, mo ci racconti. Era la data zero romana, prima di partire in tour, prima con i Cult e poi con i Death Cult. Ah, pensa un po', quindi hai avuto l'onore o l'onere di aver conosciuto Ian Asbury. Assolutamente, assolutamente sì, è una persona meravigliosa che sarà anche sabato all'Ateneo. No, dai, sta scherzando. Vabbè, sì, però chiama gente, insomma, serve per... No, ascolta. Sto giocando. Sì, no, io... è assolutamente una persona meravigliosa. Non mi aspettavo questo invito, tra l'altro, perché è stato piuttosto inaspettato. E insomma, io stavo guidando in autostrada tornando da Genova a Roma quando mi è arrivata questa proposta. Mi sono dovuta fermare in un autogrill perché ho rischiato l'incidente stradale nel momento in cui mi ha chiamato l'agente di Booking con il quale stavo lavorando all'epoca e mi ha detto: guarda che, insomma, è arrivata questa proposta dai Cult. Io all'inizio avevo capito male telefonicamente, pensavo che i Cult. No, avevo capito The Cult, ma come se fosse un festival, come se fosse, certo, un luogo. Certo, sì, quindi non avevo esattamente inteso che si trattasse del gruppo, insomma, storico. E poi quando ho capito questa cosa, ovviamente ho detto: aspetta, mi devo fermare da qualche parte, anche soltanto per saltellare e urlare di gioia. E sì. Peraltro, pensa, Death Cult è riuscita una compilation recentemente, hanno ristampato tutti i vecchi pezzi che erano usciti su singolo, che premetto, loro come Death Cult non fecero un album vero e proprio, ma fecero degli EP e sono stati messi su una compilation ufficiale uscita l'anno scorso, pensa un po', vedi? Uh-huh. E pensa che invece con i The Cult hanno fatto uscire un album da poco anche. Non sapevo questo. Sì, sì, è uscito nel 2023-24, non ricordo bene, però era il motivo per il quale poi c'è stato anche questo tour, che oltre ad essere il quarantennale è stato anche il pretesto per presentare questo nuovo disco dei The Cult. Invece con i Death Cult c'era il quarantennale proprio di vita su strada di questo gruppo, che addirittura era cominciato prima dei The Cult. Sì, infatti. Poi ti ricordi i Southern Death Cult addirittura, no? Ancora prima. Ancora prima. Ancora sì, prima, sì. Quando ero nell'ambito del calderone goth degli anni Ottanta, insomma, no? Ascolta, quindi dicevamo. Veniamo a te. Sì, veniamo a te, veniamo a questo tour. 17.000 chilometri, leggevo, ma. quali posti. Allora, cosa. Formuliamo bene la domanda. Cosa hai trovato in questa Europa post-Covid così scossa dalle vicissitudini del mondo che cambia molto velocemente in questo periodo, insomma, con le tante appunto questo mondo che sta cambiando molto rapidamente, poi casomai veniamo al perché sta cambiando molto rapidamente, come ti sei trovata, qual è il tipo di empatia con il pubblico, essenzialmente credo in Nord Europa per quanto ho visto, no? Il tour, poi ci direi meglio tu, perché insomma poi sono state tante date, quindi è difficile da così da riassumere. Raccontaci un po', insomma, com'è nata questa cosa e quali tappe importanti e quali emozioni, quale empatia, quali cosa ti ha portato questa roba? Allora, è stata tutta una grande novità e tutta una grande sorpresa. E ogni volta comunque è sempre tutto da ripostulare e da rivivere, perché non c'è mai niente di definito e mai niente di scontato soprattutto. Quindi diciamo che subito dopo, proprio a ridosso della pandemia, io avevo fatto uscire un disco, certo. Che è Mana, che poi è uscito nel 2022. E diciamo da quel momento in poi sono cominciate a succedere tante cose, quindi ho partecipato a moltissimi festival europei come l'Hellfest, il Roadburn, dove poi tra l'altro ho presentato il disco, e diciamo il tour che è stato più importante, oddio, importante forse è un po' arduo, però comunque il tour definitivo di quel momento, che non mi aspettavo minimamente, è stato quello con gli Heilung, che è durato 3 mesi. Mm-hmm. E loro sono un gruppo scandinavo e niente, mi avevano visto a Copenaghen durante il 2021, quindi a ridosso della pandemia, e poi siamo partiti per 3 mesi insieme, ed è stato incredibile perché in quel momento moltissime persone non attendevano altro che ascoltare e non so, bere proprio la musica, nel senso c'era una sete molto forte di contatto umano, di convivio, di connessione con qualcosa che fosse un'onda che potesse portare qualcosa di positivo invece di qualcosa di negativo, come poi purtroppo insomma diciamo l'atmosfera di quel periodo non era esattamente sanissima a livello anche di informazione, a livello anche sociale, a livello di tante cose. Quindi subito dopo questo periodo c'è stata proprio una voglia di rientrare in connessione molto molto molto potente, e il tour con gli Heilung è stato abbastanza importante, appunto perché per 3 mesi siamo stati in luoghi giganteschi dove tutti i concerti erano completamente sold out e tutte le persone incontrate in quel momento erano veramente avevano molta voglia di condividere, e quindi di fermarti e di parlare e di raccontare che cosa avevano vissuto in quel momento. Questa cosa, diciamo questo tour di 3 mesi con gli Heilung è stato il motivo per il quale poi mi hanno data Ian Asbury, che poi mi ha contattata personalmente. Da cosa nasce cosa? Sì, e ha voluto anche lui avere insomma questa apertura per il quarantennale, prima dei Cult e poi dei Death Cult, e anche lì c'è stato comunque un altro tipo di pubblico, perché si trattava di un pubblico sicuramente un po' più grande rispetto agli Heilung a livello di età, a livello proprio di percezione i vecchi darchettoni degli anni Ottanta. ed è stato incredibile. Io non avevo mai visto un mosh pit fatto da settantenni, è stato abbastanza impressionante da vedere, ma c'è stata un'energia, cioè quello di cui ti posso dire è che post covid c'è stata un'energia e una voglia proprio di connettersi con altro inenarrabile, fortissima, potentissima. L'ultimo tour che ho fatto dopo i Cult e i Death Cult è stato quello con i Calandra, e lì insomma siamo 4 anni di distanza dal Covid, quindi c'è tutto un altro tipo, diciamo, di reintegrazione all'interno di questa società, e anche lì c'è stata una risposta pazzesca. Non so poi se è il mondo della musica che in qualità di onda sonora rievoca tutta una serie di cose che rimette un po' a posto e unisce i puntini o altro, non saprei dirlo, perché probabilmente è talmente tanto vicino che è un po' difficile riuscire a definirlo, però quello che ho notato è che c'è una voglia molto grande di mettersi in connessione e di raccontarsi e di riunirsi a livello proprio di unione fortissima. È come, non so, ricreare una costellazione perduta. Ok, ascolta, i tuoi concerti non sono dei concerti, diciamo, in termini classici, si tratta piuttosto di performance vere e proprie in cui l'allestimento delle scene, i costumi che indossi, l'atteggiamento sul palco, oltre che appunto essere poi una one woman band, non so come definirti, che quindi creano un contesto particolare. Il tuo tipo di musica invece è un tipo di sonorità abbastanza onirica, no? Che ci porta a viaggiare attraverso territori sconosciuti e estremamente contaminati, con sonorità che provengono da tutte le epoche e da tutto il mondo, oserei dire, insomma, comunque quello che è da tutto l'universo. Da tutto l'universo, sì, da quello che ti va di ricercare. Come connetti quindi questa roba qua, sia a livello te, hai detto il disco l'ho fatto praticamente in epoca Covid, insomma, quindi probabilmente anche riflettendo di quella situazione là, come connetti appunto questa roba qui, che appunto è una fuga poi tutto sommato dalla cruda realtà, invece con la cruda realtà, cioè con i massacri, i genocidi, le guerre, i post-Covid, con una storia insomma che richiederebbe invece, cioè qual è, come entra questa realtà nel tuo modo di produrre poi musica e suoni? Ma allora, quello che ti posso dire, una domanda a riserva oppure cruda... potente la domanda di Fefo. No, la cruda realtà, questa è un tipo di cruda realtà, poi ci sono tanti tipi di realtà, nel senso che la cruda realtà del Covid, delle guerre e della divisione, della separazione tra uomo natura, uomo umano, diciamo, insomma, questo è un piano. Poi c'è anche l'altro piano, che è dove in realtà veramente siamo una costellazione perduta da ricostruire, probabilmente. Quello che ho cercato di fare, ma senza volerlo, nel senso che è stato abbastanza non tanto pensato, per quello che ti posso dire è che in un momento in cui tutto verteva sul separatismo e il state distanziati, non vi toccate, non vi abbracciate, non fate convivio, non create un'unione, ma anzi cercate pure di infamarvi a vicenda se qualcuno non rispetta gli orari di uscita o eccetera eccetera, in quel momento ho detto ok, stavo facendo un percorso musicale di un certo tipo, l'ho bloccato perché mi sembrava di aver già detto quello che avevo detto, e ho cercato di mettermi in gioco sia sonoramente che strumentalmente per cercare un punto di unione, in realtà, non solo tra gli strumenti che ancora non conoscevo e che avrei voluto sperimentare, ma anche tra tutta una serie di storie sia umane, antropologiche, simboliche che sonore. Quindi l'onda sonora e l'onda in generale è sempre stato probabilmente qualcosa di molto più atavico, che arrivava molto prima di noi. L'onda è quello che è il verbo, tutto comincia comunque sia da un suono che si mette in gioco e comincia a creare delle cose. La musica probabilmente ha questo grande potere di entrare in comunicazione in maniera molto profonda con qualcosa che ci appartiene nel profondo, a livello di DNA, a livello proprio di natura, di essenza. Io credo profondamente che c'è qualcosa di magico e incredibilmente e paradossalmente naturale, non soprannaturale, ma talmente tanto naturale e talmente tanto dimenticato, che a volte dobbiamo un attimo riprenderci in mano, perché ci appartiene, appartiene a tutti noi. E in quel momento di grossa separazione, mana, che significa forza vitale, che significa dare comunque sia un grande potere a qualcosa, non so, come quando entri in un parco, in un tempio, e senti che c'è effettivamente un tipo di energia che ti parla oltre a quell'architettura, a quel luogo. C'è qualcosa di profondamente unente, così come la musica è. E mana mi sembrava in quel momento l'esatto antagonista a tutta quella grande opposizione di cui si parlava, per colpa di un virus o di una malattia o semplicemente di un assetto sociale totalmente malato che continuava a promulgare una separazione invece che un'unione. Quello che mi è piaciuto fare in musica è stato cercare di riunire in qualche modo, non soltanto sonoramente ma anche di storie. E nulla, quello che è successo dopo è stato che questa cosa forse un po' ha funzionato, perché di fatto quello che ho ricevuto è stata una riunione a tutti gli effetti. E non so, forse il motivo che mi fa fare musica nella vita esattamente poi consapevolmente è anche questo, cercare di riunire il più possibile, perché non so, penso che ognuno di noi si meriti di far parte di questa grande famiglia che siamo, no? Mm-hmm. Non di dividerci ma di riunirci e di risanarci anche. Senti, sono Elettrodo, ciao, no? Non so se ci eravamo presentati. Ciao, vabbè. Ti conosco molto bene. No, ma sì, lo so, ma io non... no, ti sto dicendo, io adesso a breve vado via perché c'ho la branda che mi aspetta e ti lascio nelle grinfie del professor Fefo. Quindi un'ultima domandina per quanto mi riguarda. Tu hai anche suonato spesso per la radio, sì. Ti ho vista parecchie volte. E secondo me tu sei abbastanza cambiata sul palco, nel senso, mentre prima avevi la chitarra con tutti i vari marchingegni, gingilli attaccati che vanno in loop, eccetera, eccetera. Secondo me hai accentuato il lato tribale della questione, una sorta di sciamana. Del 2024. Domanda, una sorta di sciamana domanda 2024. Una sorta di scemona del 2024. Buona, quindi ce la possiamo rivendere. Diciamo che ho cercato di ampliare un po' le sonorità anche con le percussioni, esatto. E sicuramente le percussioni poi portano quella tribalità di cui stai parlando, sì. E durante il periodo del Covid, anzi un pochino prima che esplodesse tutto sto casino, io ho cominciato a studiare taiko, che è l'unico strumento che poi di fatto ho studiato, che sono queste percussioni giapponese, questo enorme tamburo giapponese che unisce le arti marziali, soprattutto dello Shaolin, con proprio la percussione. Quindi ho iniziato ad approcciarmi a questo strumento che diciamo appartiene a tutta una cultura sicuramente molto diversa dalla mia, e che però ha unito sicuramente delle grandi passioni che sono quelle delle arti marziali e della musica, e quindi ho cominciato proprio ad andare in fissa, come si suol dire, per questo strumento, al punto da integrarlo poi in quello che prima era soltanto una chitarra in loop e delle voci in loop, e piano piano è diventata questa grande ricerca di diciamo intensificare la parte più bassa e tribale e percussiva anche di questa tavolozza sonora. E quindi quello che vedi come cambiamento da questo punto di vista è stato anche l'integrazione di percussioni e sintetizzatori, che mi hanno permesso comunque di sviluppare tutta una parte più baritonale del progetto, che prima invece era molto più medio-alto. Sì, poi da qui allo sciamanesimo, insomma, te la corre. Non mi reputo assolutamente una sciamana. Cioè, allora, dello scemonesimo. Però, una musicista, sì. Va bene, senti, adesso mettiamo uno stacchetto e... Okay. Così cambiamo anche la cioè c'è proprio un, la dinamica. La postura, la dinamica, sì. Rivoltiamo lo studio, rimani qualche istante in linea e a dopo, grazie. Nel frattempo mandiamo Ipnotica per ricordare la vecchia di tanti anni fa, vai. Eccolo qua, elettrodo che si prepara in... Che numero è? Ipnotica è la numero... 2 di 9. È 2? L'album era 9 e sì, è il secondo... Ipnotica è la seconda traccia. La seconda traccia di 9. Io ti saluto e ci si rincontra in giro. Ciao Elastro, spero di vederti sabato. E spero anch'io, vediamo. Grazie. Ciao. Un bacione. Ciao. Eccoci, ritornati in onda. Tra l'altro non abbiamo messo Ipnotica perché... No, era Cowax, era la seconda Cowax, traccia la seconda... Che, sì, esatto, che è Cowax. Perfetto, perché avevamo invertito i due dischi, è molto semplice, quindi gli ho dato la seconda traccia è sbagliata. Vabbè, in ogni caso di un brano dove all'inizio suonavo soltanto chitarra, sì. Qui non c'è neanche la voce, al contrario di Ipnotica, c'è solo chitarra in loop forever. Sì, certo. Certamente. Allora, aspetta che c'ho dei livelli che non mi piacciono, ecco, adesso vanno sicuramente meglio. Eravamo rimasti appunto ai suoni e all'impostazione proprio che cambiava. Abbiamo avuto il piacere qua in radio di avere una tua session direttamente negli studi di Onda Rossa tanti anni fa e questa roba qui mi impressionò molto, ma ne parlammo anche all'epoca, per l'attitudine sicuramente è molto professionale da parte tua, nel senso di voler appunto poi suonare tutti i tuoi gingilli, appunto, come dicevamo prima. Ma l'attitudine era quella del gioco, comunque. L'impressione che avevo avuto è che comunque una parte importante della sai, si dice play a guitar, no? In inglese play è proprio giocare, giocare la chitarra. Molto significato, esatto. Sì, se la vogliamo tradurre in italiano, che invece distingue i due verbi. Ma anche in francese si dice jouer. Vedi? Vedi, questo non lo sapevo. È sempre giocare il significato. Quindi di fatto gioco e suonare sono abbastanza affini tra di loro, perché di fatto si mette, cioè ci si mette in gioco quando si suona, ma allo stesso tempo si gioca quando si suona, perché è un piacere gigantesco suonare. Un piacere talmente tanto gigante che non si può dire che sia una cosa seria, no? Perché è un gioco. In realtà è una cosa serissima, perché appunto, come dicevamo bisogna prima, c'è una connessione gigante. Sì, a parte quello, sì. Ma poi magari bisogna pure. Così come succede col gioco. Sì. Cioè, bisogna studiare per giocare? No, bisogna solo giocare per essere migliori. Sì, sì, sì. Penso che nel momento però in cui si smette di giocare qualcosa non funziona più bene. Certo, no. Bisogna continuare. Quindi la domanda era questa, ma hai già praticamente risposto. Cioè, volevo sapere se ancora oggi comunque il tuo approccio sul palco, o comunque dove ti trovi anche in studio, è quello del divertimento prima di tutto. Allora, il mio approccio sicuramente dal punto di vista della performance dal vivo è cercare di essere il più in contatto possibile con le persone che ho davanti, perché di fatto quello che sta succedendo è un grande dialogo. Quindi per quanto diciamo si possa giocare insieme, quella cosa è veramente una comunicazione vicendevole. Nello studio, quindi nel fare comunque sia un disco e quindi andare nello studio di registrazione, lì diciamo il gioco a un certo punto sì, c'è sempre una componente sicuramente di messa in gioco, anche di divertimento, però lì arriva anche tutta una serie di responsabilità che almeno a me fanno dire ok, voglio fare questa cosa al massimo della mia professionalità, perché lì insomma, ecco, preferisco che un disco suoni come un disco e poi la performance abbia tante fumature, però un disco secondo me ha una responsabilità molto maggiore, perché di fatto comunico con delle persone che non si possono vedere, che non possono conoscere la tua persona, quindi lì secondo me il livello di comunicazione è un pochino più mediato, mediato. Sì, è mediato, perché non hai la performance dal vivo, quindi la persona che ti ascolta non sa che sei da solo, che stai facendo quelle cose in un determinato modo. E la performance dal vivo diciamo che lascia sempre tutti abbastanza impressionati da un certo punto di vista, perché di fatto vedi una persona da sola sul palco che sta suonando tanti strumenti contemporaneamente in tempo reale, quindi senza computer, senza tracce preregistrate, ma tutto avviene performativamente lì per lì davanti al pubblico. Errori annessi, perché poi il gioco è anche il fatto di non essere perfetti, di non essere precisi, cosa che a volte è molto richiesta in un disco. In un disco invece diciamo che almeno che non si tratti di un live, invece la perfezione è quasi quella anelata, no? Quindi almeno io che sono una perfezionista della Vergine orribile, quindi cerco sempre di dare il mio meglio. Quindi la cosa che sappiamo sempre di non arrivare mai alla chiusura di sto disco, perché se uno cerca la perfezione poi... No, la perfezione è raggiungibile per fortuna, perché di fatto poi è sempre il motivo verso il quale si continua a studiare per sempre. Quindi ben venga la perfezione che ci fa sentire imperfetti, perché altrimenti ci sentiremmo finiti, arrivati, ed è impossibile, perché la perfezione non si raggiunge mai e poi mai, altrimenti saresti finito, statico e inutile anche. Quindi la perfezione è il motivo per il quale continui a studiare sempre e continui a cercare e a ricercare sempre. E quindi non so, è il motivo che ti muove, che ti spinge a dare magari il meglio che puoi dare in quel momento, quello sicuramente. E, però sì, non ci si ferma mai, è un percorso abbastanza infinito, per fortuna, perché è anche molto stimolante. Allora, invece ci parlavi appunto due lustri fa degli eoni fa, di come appunto è iniziato poi tutto questo gioco, quindi di rompersi le scatole della vita che si conduceva fino a quel momento e di fare della propria passione un mestiere, e questo ti ha portato poi inizialmente ad affrontare anche in maniera abbastanza incosciente per certi versi la nuova vita, il nuovo modo di approcciare alla vita. Su questa cosa, in un mondo che forse più all'epoca che oggi, e forse ancora prima, forse ancora di più in un passato più remoto che oggi, il fatto di essere donna è un vantaggio, uno svantaggio, una differenza, o in un mondo appunto che se della musica, in cui comunque della musica e anche del tuo campo, insomma, di quello che suoni te, era così, non dico monopolizzato, ma comunque improntato al maschile, insomma. Guarda, io quello che ti posso dire è che sicuramente nel 2007, quando ho cominciato, eravamo veramente poche, con la E finale, quella E non ribaltata, ma proprio quella E di donne, eravamo molte poche a fare comunque musica in quegli anni, e a fare magari, io arrivo da un processo sperimentale underground, quindi insomma c'erano diverse persone, tante persone, però quello che ti posso dire io è che di fatto poi anche questa definizione di genere mi sta un po' stretta, perché di fatto io mi sono sempre considerata una persona, mi sono sempre considerata un individuo che io sono parte di un insieme, sono parte di un padre e una madre, sono parte di tante sfaccettature, quindi se dobbiamo andare a definire delle cose, io sono un po' indefinibile sia nel genere che nella persona, quindi sì, sono nata, come si dice, cioè biologicamente femmina, tutto quello che ti pare, però sì, nel 2007 eravamo poche, eravamo molto poche, adesso sicuramente siamo tante più anche donne, ma anche, cioè non vedo questa cosa come un punto in meno, un punto in più. Io sono stata da sola, potevo essere una qualsiasi entità, sono stata una solista e ho cercato il mio percorso individuale in questo dedalo labirintico di tante cose, ho cercato di mettere insieme tutte le cose che mi hanno ispirato, che mi hanno stimolato, e ho cercato di fare la mia musica. Poi questa cosa non ha un'identità di genere per quel che riguarda me, quindi è molto fluida, esattamente come fluidi sono i suoni, e si spera che nel 2024 magari questa separazione tra cose, per quanto sento insomma il peso politico anche di questa cosa di cui parli, spero che si lasci un attimo un po', non so, fluidificare, perché di fatto siamo delle persone, siamo degli esseri umani, e questa cosa indipendentemente dal fatto che possiamo essere catalogati in queste cose, però ecco, non è né un punto di svolta, né un punto d'arrivo, né un punto di merito o di demerito, è semplicemente un punto umano, e niente, da solista ho cercato di dare del mio meglio. Bene. E di fare del mio meglio e di continuare a farlo. Benissimo. E dunque, allora adesso parlaci del futuro. Cosa succederà? Sappiamo che lì intorno a te ci sono anche altre persone. Insomma, cosa succede a novembre 2024? Quali sono i progetti futuri? Se dopo due anni e tanti live, allora stai portando innanzitutto essenzialmente Mana in giro, o nasce così facendo, nascono anche altre cose? Parlaci un po' del futuro. Ma guarda, io adesso sto portando in giro Mana, ma anche Live in London, che è uscito da pochissimo. Ah, con Subsound Record, che è la mia etichetta attualmente. È uscito questo cofanetto del Live in London, che praticamente è il live che io ho portato in giro con gli Heilung, che era proprio Mana, però è Mana, diciamo, riarrangiato per chitarra, perché quando è uscito Mana io ho messo le chitarre molto da parte, sì. Quindi ho cominciato a scrivere un disco, diciamo, su una zona di comfort che non facesse più parte della mia zona di comfort. Sono completamente uscita dalla zona di comfort del chitarrismo, che è stato il, diciamo, l'inizio di tutto quanto, e ho cominciato appunto a integrare, come ti dicevo, strumenti come le percussioni, il sintetizzatore, e in Mana principalmente gli strumenti, diciamo, toccati in quel disco sono sintetizzatore, voci e percussioni. Le chitarre hanno davvero un ruolo molto marginale rispetto al passato, mentre il Live in London, che è uscito nel 2024 ed è l'ultima uscita che ho avuto adesso con Subsound, è invece un Mana rivisitato anche con tutti questi strumenti, ma anche con le chitarre. Poi il futuro, cosa dirti del futuro? Non lo so neanch'io. Quello che voglio fare in questo periodo è fermarmi, che è una cosa che non faccio da tantissimo tempo, a scrivere delle cose nuove, però per farlo devo un attimo mettere insieme questo grande puzzle di esperienze che ho avuto il privilegio di esperire in questi 4 anni, con persone meravigliose al mio fianco, tra cui Secchetto, che è proprio qui al mio fianco anche ora in questo istante, come ti annunciavo prima, che è stato il mio tour manager, driver, mentore, non so come definirlo, però sì, in questo momento, come stavi dicendo anche tu prima, sono attorniata da persone fantastiche che continuano ad attorniarmi e che spero continueranno a far parte non soltanto del presente ma anche del futuro, perché di fatto abbiamo scoperto di essere una squadra fenomenale. Infatti sabato, che suoneremo all'Ateneo, e ricordiamolo che c'è questa serata a favore e a sostegno di Biblitea, e che tu sarà il tecnico del suono. Però per tutti questi tour, non quello degli Heilung, ma i 2 tour dei Cult e questo tour ultimo di 40 giorni in giro per Europa e Inghilterra, è stato di fatto il mio tour manager, e ci siamo fatti questi fantomatici 17.000 chilometri ultimi, che sì, fanno parte ormai di un passato molto vicino, ma si spera che ne faremo il quadruplo in così futuro. Per dare qualche numero, quante date sono state, anche per così, per dare la dimensione? L'ultimo tour, una quarantina di date. Il tour con i Death Cult è stato un mese, un altro mese con i Cult e con gli Heilung 3 mesi, quindi sono state tante date, ed era pure tanto tempo che non tornavo a casa in pianta stabile, diciamo, per un tempo che non fosse solo una settimana, o il tempo di farsi una lavatrice e ripartire di colpo. Quindi, insomma, io adesso mi considero tornata. Dopo tanto tempo mi considero finalmente tornata a casa, e il live all'Ateneo per me sarà un grandissimo ritorno, perché comunque fa parte anche di quelle radici delle quali non si può prescindere, nel senso, sono nata e cresciuta nei posti occupati, ho cominciato a suonare grazie a questi luoghi, e se non fosse stata, cioè se non avessi potuto fare gavetta in luoghi simili, dove ogni occasione è una nuova possibilità, io penso che non potrei essere la persona che sono. Quindi per me poter fare ritorno all'Ateneo dopo così tanti anni e poter fare un concerto con i Rota de Ferro, che erano gli ex Concrete degli anni 90, gruppo grazie al quale poi è stato un grande stimolo anche per suonare in un certo modo, perché nel 94 io avevo 14 anni, neo adolescente, ho cominciato a frequentare i luoghi occupati in quel periodo, e c'era il garage a Trastevere dove suonavano i Concrete, i Sangue, Bruma, sulle spalle delle pietre, mo non mi ricordo come si chiamavano tutti quanti, però poter suonare oggi nel 2024, alla fine 20 anni dopo all'Ateneo, no più, 30 anni dopo, cazzarola, 30 anni dopo all'Ateneo, con le stesse persone che sono state il motivo di tanta sperimentazione, ricerca e volontà di poter seguire un percorso piuttosto che un altro, per me è veramente un ritorno che suggella delle radici dalle quali ripartire per fare delle cose che chissà chi può dire che cosa succederà in futuro, non lo so, vedremo, però è bello poter fare ritorno a queste radici. Vabbè, ti fermi fino a che non viene di nuovo la nostalgia di viaggiare di nuovo. Ah, io avevo nostalgia di tornare perché viaggiare, sono sempre in viaggio. Benissimo. Però avevo davvero nostalgia di tornare un po', perché era tanto che non facevo ritorno. Allora, noi abbiamo preparato Travelers da mano, okay. E così sì. Appunto vediamo qual è la dimensione del viaggio. Va bene. Sentiamo. Riassumiamo un pochino. Travelers, da Mana del 2022, in attesa anche per noi di procurarci questo lavoro nuovo. Prima che ti perché si non ce l'avete? Io non ce l'ho. No, vabbè, me lo devo venire a portare a San Lorenzo, quindi. No, vabbè, questa era la fine, l'inghippo. Dunque, ricordiamo allora a tutte e tutti, te ne è occupato Viattone Fattiboni ad Acilia, 30 novembre 2024, DJ set Lady Crime, Tetino, punk, rock, metal e wave go. In Nottibus, Panibus, Vegetanibus per chi vuole mangiare, cena, concerti, sostegno alla Biblioteca Anarchica L'Idea, Misantropus, Lady Refrain, Roda De Fero. Quindi sabato prossimo, questo lo ricordiamo, e appunto ti eri proposta te. Io più che il disco, diciamo, un'ambizione ce l'avrei, è quella, magari cooptando anche il secchetto lì presente, di venire a fare un live qua in radio, come facemmo tanti anni fa, e rinnovare questo a ma tempo ben tuo. Volentieri, guarda, io sarei venuta questa sera in radio, soltanto che mi è venuta a trovare una mia super amica, che era la mia ex compagna di banco del liceo, niente po' di meno, che l'ex compagna di banco del liceo, che erano 11 anni che non tornava a Roma, mi è venuta a trovare questa settimana, e proprio oggi io l'ho riaccompagnata a Fiumicino, e quindi non mi sono trovata a Roma nel momento di questa intervista, perché altrimenti avremmo potuto combinare intervista, concerto e chissà cosa. Ma tanto vi aspetto tutti quanti sabato 30 all'Ateneo. Per ora ci diamo appuntamento sabato prossimo. Assolutamente, vediamoci tutti questo sabato, perché questo sabato non è sabato prossimo, attenzione. Certo, questo sabato prossimo, esatto. Nel senso il sabato, sabato che viene. Questo. Sì, sabato. Sì. Sabato dopo domani, per capirci. Dopo domani, 30 novembre. E poi dopo domani. Chissà che riusciremo a replicare anche per la radio, ti teniamo sempre in conto, sempre. Ma appunto, grazie, volentieri. Sempre compatibilmente, poi se ti pizzichiamo a casa per la data che sceglieremo, insomma, perché sappiamo che bisogna metterti il sale sulla coda, però hai detto adesso una bella pausa te la prendi, quindi chissà. Sì, vorrei tantissimo, quindi mettiamoci d'accordo, ma intanto ci vediamo sabato. Benissimo, allora ringrazio te e tutta la crew là presente. Grazie a voi, grazie anche da parte di Secchetto. Ci vuoi parlare un pochetto? Lo vuoi salutare? Ma salutiamo Secchetto in diretta. Salutiamolo, dai. E dai, aspetta. Dai, saluti a tutti e tutte, buonasera. Va bene. Sto qua per caso. Stavi passando lì per caso. Passavo qua per caso per Fiumicino, ho visto Lili che faceva intervista con la radio e ho detto vabbè. Senti, adesso tu sei preso da tutte queste robe e non stai suonando, quindi mi sembra di capire. Ma produzioni elettroniche, roba punk, niente. Si suona sempre. Troviamo sempre il tempo per. Sì, per carità. Non bisogna mollare, no. Non bisogna perdere il vizio, ecco. Assolutamente. Dai. Va bene, allora vi ringrazio tutte e tutti e arrivederci e risentirci presto. Grazie a tutti e tutte. Ciao. Ciao, grazie a tutte e tutte. Ciao. A prestissimo, ci vediamo sabato all'Ateneo. Ciao. Ciao.